fuchi sul capo di Cancara, lui c'è lei mi sa che la tua, mi ha chiesto. Ma che carità, che ne ha detto? Ha chiesto, vedi? Quello ti gira le balle, non è stata portante, ti posso anche capire. Ma quando si fanno così così, ci devi sopra e via, dai, non è che tutto qua. Vabbè, dai, già, riprendi tutto. Che mi dà sta mangiare qualcosa, devo sto manco un rotolo. Basta, dai, lo prendo io, saluto le belle ragazzone, dai, saluto tutta la volta, vuoi ripetere a parte il fatto. Ciao, ciao, tutto vivo. Ciao, ciao, fai che ci sentiamo. Avanti, Massimiliano. Yeah. campo dell'ala 48, un luogo nuovo, uno guardolino, quello grande grigio, dai. L'M24, no, che è il luogo lo stesso, qua sta parecchio, qua la stampa è tutto, che avevo il suo originale. Faccio un buon prezzo, dai. Non più pago da nessuno io. Adesso mi danno in divata loro dopo, lo tengo io per farlo poco. Ci vuol dire, non vuole segnali, mettete tu, rigiri, qua il segnale di segna, guarda il tuo, poi se non sei tu, segnale, guarda il tuo. Eravate siccome le carte davanti, da te, ti lo segnale, adesso, dopo il 10, ti arriva uno che ti, adesso, che fa break, tu avanti avanti, vedi, da segnale, guarda il mio, cosa pensi, quindi non tu. Non me lo mai frega nulla di dirti che ero io poco fa, break, che ti dico che sono appena entrato, sono entrato. Ma se era quella del tuo, ma mi sbaglio, ma se era quella del tuo. Se era il tuo è forte, non è che sia debole qua, Tu sei intanto, io sono qua al monte, perciò ti ho di fronte e mi arrivi benissimo qua. Perciò non è che sia un segnale basso basso. Meglio così, comunque la sua lì che si guarda, cazzo, sopra me ci mette in mezzo queste cazzate. Però questa latte, perciò la segnale è quella del tuo. Non ho detto che sei, non ho detto che sei tu. E che mi hai appena detto che sono un'ora, break, e io ti ho risposto, no, sono appena entrato. Comunque dai, lasciamo prendere. Ascolta, volevo chiedere, ma tu mi segni, Luca Piriri, sei qui? No. E capa di così. Non sono io, perché? No, non mi sono morto. Cappa. Non era quello, se ho capito chi era. Conosco, perché? Devo dire qualcosa? No, no, perché è una conoscenza di mio parente, niente. Ah, vabbè. Comunque se tu non capisci quello che dico, non l'ho detto. Allora devi capire che ho detto. Sei tu io, il segnale è uguale al tuo, ecco perché. Se tu mi stai dicendo che non sei tu, perché tu non ho detto che sei tu, nel senso nominativo tuo. Sei tu io di me, tu mi stai dicendo, non sono io. Ma il segnale è uguale al tuo. Tu cosa mi hai detto non lo fa? E allora chi subirà per a te? Appunto, ma cazzo, ma se tu mi dici Luca, se un'ora break, 1, 2, 3. Scusa, ti sto rispondendo io, vuol dire che mi stai dicendo a me, scusa. E ti dico non sono io, tu mi dici no, sei tu un'ora, break, io ti dico non sono io, non sono io. Vabbè, finiamo a tirare. Era lui, non lui, non preoccupare. Già, già l'ho capito chi era. Vabbè, ma sta sempre. Tanto, ma se lui sono con oggi è proprio... ho fatto l'esclusiva, baracchino. Perché lo so che ci sto poco, quando... Ma c'è una fida sempre da baracchino. Dove ci stavo di più? Adesso ci sto un po' di meno. Vabbè, Luca, se non è successo nulla. Hai chiesto e niente, ti risposto, dai, finiamo la vista, no, tanto, niente. Infatti, perciò, sto dicendo che il segnale guarda il tuo. Ma te sì cosa ti pensato tu, magari, cosa ne so, uno fai, l'esempio, ti prende in giro, e lui ti segnala la guarda il mio, tu cosa pensi? E tu sei tu, mi dirai, no? Ma te sì cosa? Ma il segnale non guarda sul cicatto. Poi, se sei tu, a me non è che mi metti in tasca qualcosa, tutto qua. Hai ragione, e allora ti sono sicuro che sicuramente ha appena avuto. È sopra la sbagliata. Se te ne andavo la mia, ce l'ha solo lui uguale al mio qua, perché abbiamo già avuto discussioni con la sua gente qui sul baracchino, che diceva che ero io a sta persona che ho fatto. Ma comunque se è lo stesso segnale vuol dire che è lui. Ascolta, dimmi una cosa. Che quando parli di tu, mi stavi dicendo, si conosceva a Luca Piriri? Guarda, se non sei tu Luca Piriri, tu ti dici. Ma dimmi chi è, io lo conosco a Luca. Ma non c'è problema, se mi dici che sei tu, non c'è problema. Se non sei tu, venga. Sto dicendo che io lo conosco. Dimmi chi è quando tu lo parli, io lo voglio, quando te lo riferisco. Ma non c'è problema, lascia che... Come vuoi tu? Andare, cava. Ma dai, vabbè, io vi auguro una buona notte. Dai, ce la risentiamo domani alle prossime. Ciao. Ciao, buonanotte. Tanto buonanotte. Ma non cadere la stai uscendo. Ciao. Non cadere la stai uscendo. Facciamo il volume attivo. K2, sei con la forma 27. No, 27 è quella l'antenna blu, è la blu, è nera. Sì, è nera. È tipo no, è che mio ma non ci ricopro. Questo è branco, che ha un manico già di palestra. Bravo, sì. E poi ti posso dire con l'antenna, fa miracoli. Pensa sul tetto, sì che fa miracoli. Sicuramente è bene, perché c'era un anni addietro un ragazzo, ma non diceva forse, ma dappertutto, Scusa, Antena 1 come ti arrivava poi prima quando è entrata? Perché Antena 1 c'è la testa mia. Comunque anche per favore c'è quella lì, se non mi sbaglio, è bravo. Ma quel pari là, mi tu, capi, se può essere il problema. Dai, ma poi ognuno può fare quello che vuole, ma è freddo. Per colpa degli altri, ci piace di tu. Almeno alla fine io ho detto quello che volevo dire, adesso poi non so qua. Non è che ti posso toccare non per il coglione, ma ti vuole sempre. Ebbene, se no, così tu hai risolto perché siamo approvati, ho fatto vedere dove stanno appena uno, dove è stato io, sta arrivata a casa mia. Ebbene, tu, alla fine non so. Bravo. Veglia. Antonio Sonset, ti volevo dire un'ultima cosa, anche il parchetto ma esce voce Roma stessi ed è più distante di tutti, va bene. Guarda, se tu scendi ad Alghero, pari a Fintino e tu intendi sempre aereo. Cosa ti volevo dire? Lì dove stai tu sicuramente, presumo che abiti in buona natura lì, per tattora. Mi abitava Anna Mambolina, c'era una mantova lì, ma qua doveva fare una fucilata per forza. Era, non dico quasi, ma lì, era la terza, diciamo, il terzo quarto segnale, ma era fortissimo qua. Ma va, tocca. Guarda, ti ha fatto la mantova già non vede. Che cazzo. E prima c'era un bel disso di vecchio, Maracchini, e era pieno. Conosciuto è qua sonnambulo. Sonnambulo no. Poi c'era Piccia Mio, vecchio, poi c'era il fratello, adesso non mi ricordo, mi attivo. E a Leone, conosciuto là? Vecchio? No, sempre stato di vecchio, una cosa di uomo, dai. No, sai che l'ho conosciuto a Gebru, poi vabbè si è preso la serie vecchio, come si chiama? Aspetta, a Gebru, come cacchio la fatto? No, Parfumero, Barbalena, Antonio Barbalena, e oggi ci sono stati tanti, dai, Antonio Kawasaki. E Mario 33 qui via Rodolfo, però sempre andando indietro. Posso, io ho iniziato, mi sono quasi 20 anni a Maracchino, non mi sono finito. No, io ci sono due giorni, però sempre per conoscenze io, capito, però Maracchino è stato lì, però conoscenze che sono appunto un po' qua, esatto. Io ripeto, cioè, non so se hai conosciuto questi qua che sto nominando io. Hanno abitato lì. Tuttora diciamo che c'è qualche antenna lì, insomma. Sì, c'è più di una, io ne so una. Se fai dopo il bar 20 c'è una lì su, quella si può dire, la mia Lomberto, magari pure la tua quella lì è, la mia Lomberto ne vedo una che fa un certo piazzotto lì su, non lo so perché è quella lì, comunque è sempre lì. Poi c'è in via Faccoli c'è un palazzo che è pieno, lì. Cosa? Dico, come mai questa passione del Maracchino? Ah, io guarda, da allora, mio padre ce l'ha. Io ce la compro un'antenna di via Pascoli. Ah, il 48. Più un amico mio me ne aveva regalato altri due, un S60, un S68, un S68, non so cosa. Il 60 è. E uno ce l'ho io di quelli lì e uno ce l'ha mio padre c'è il furgone. Però niente, non ho mai avuto l'alimentatore, niente, sono buscato un po' di roba. Mi sono andato a vivere la mia moglie e niente, me l'ho piazzato. Capo. Dunque l'hai fatto riferito se ti serve qualche antenna di via Pascoli. Ascolti, sento un pochettino perché, ascolti, qui, se ne pensi la luce dello zitto? E non ce l'hai mai tanto, Busca i soldi, ti faccio fare un affare a te. Se busci i soldi, no, ti faccio fare un affare veramente. Quando sei disposto, mi fai sapere. Ma tu guarda, c'è qualche cosa acceso di fondo, perché qui canta, non c'è la luce che mi sta sbalzando, Però ci vuole l'accesso. Perché c'è l'accesso, non credo che ci sia qualcosa. No, non c'ho nulla. C'ho 10 watt, 10, 12 watt, 13, ma se non mi ricordo. Nulla. Questi watt e basta. Sì, tu che sei, magari non hai una buona alimentazione. Io sono l'alimentatore della Edipex, c'è scritto 12 VCC 10 ampere, però cazzo, quando parlo mi si alza la luce, solo lui per mi chiede a te. Tu mica domani è pronta quella roba. E alza, non c'è problema, se la porto non ne ho io. Adesso vediamo, non so, se sei qui, guarda, qualcosa da parte, di su, ti faccio fare un affare, ti ho un apparecchio serio, guarda cosa è adesso. C'ha 5 bande, via, te lo guardi, prova parecchio questo qua, noi siamo modesta, vedi un po', forse più tranquillo di tutto, sai, ci mettiamo d'accordo, non c'è problema. E che apparecchio è, sono Luca? Ce l'hai internet? Sì, ce l'ho, dimmi che apparecchio è, vero, me lo guardo un po' più. Su internet, Typhon, c'è il Typhon 2, c'è una banda in più. Tarifo normale, non la fai niente. E il costo com'è? Quanto lo stai dando tu? Adesso vediamo, ora ci mettiamo d'accordo. Come se mi fa parlare la macchina di queste cose, un poco mi piace. Va bene, andavo. Perché in base alle tasche, infatti come funziona? Come sto lavorando, quel poco reo, sono stato in fretta, poi vediamo se si può fare. Vabbè, tu non ti occupa. Già, ci troviamo magari una sera, sali, in zona mia, come vicino io non ne ho problemi, vediamo un po', faccio una apparecchio, questo qua va bene, non so come mi stai ascoltando, l'unico problema che ha, tanto non lo vuoi portare a parolia lineare, alla fase laterale, che non è che un baracchino, non è che vada alla grande, ecco. Quando la tele va bene su una radio HF, una radio professionale, comunque, ti fanno sapere, dai, devo fargli fare una piccola revisione e poi ti dirò. Va bene. Ascolta, Cata, se metti tu di lineare, perché io qui ne ho una adesso attaccato, che è un 737 della CTS, però sinceramente fare lo switcher non mi cambia nulla. A sacrifici grossi. Perché lineare, allora un lineare deve avere un ingresso sarebbe l'ingresso del baracchino, se ha più di quel tanto di quel watt, le persone, ti chiedono amici e poi ti fuggi. Già, tu non sai cosa fai quando vai su Facebook, tu prendi e ci metti il lucchetto, fai entrare solo gli amici e basta. Infatti, l'unica è quella. No, io ci ho messo il lucchetto, entrano solo degli amici, capito? Io quelli che ti chiedono l'amicizia, se vuoi che li conosci li fai entrare, se no no. Appare. E infatti bisogna fare così. E monitate, ci sono donne che mi contattano, come faccio? Dai il mio nome e cognome. Che appare, va bene, facciamo gli altri falchetto, Yeah.